L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata in cui parleremo di terreni contaminati e soprattutto bonifica di terreni contaminati. Lo faremo grazie alle interviste del collega Federico Mascagni, che ha seguito per noi il convegno del Comitato Tecnico Terreni Contaminati, che si è tenuto di recente a Ferrara. In quell'occasione, tra l'altro, è stata presentata una guida del Sole 24 Ore, nata dai lavori di quel gruppo guidato dal professor Raffaele Cossu, che è un'autorità in materia e professore di ingegneria sanitaria ambientale all'Università di Padova. La guida si chiama Bonifica dei terreni contaminati. Il professor Cossu ci spiega intanto che cos'è questo comitato tecnico e a che cosa si puntava con i lavori del comitato. È un comitato che è nato, promosso dalla Tavolo di Roma, che è un gruppo, come si usa dire, una think tank di dibattito e di scambio culturale tra diversi settori sul tema della gestione dei rifiuti solidi e delle risorse. E il comitato è un comitato che nasce su base del tutto appunto volontaristica, promosso dal Tavolo di Roma, ed è stato aperto a tutti coloro che sono attivi nel campo della bonifica dei terreni contaminati in Italia, sia che fossero ricercatori, amministratori regionali, province, comuni e così via, per rispondere a un'esigenza sentita da parte di tutti, che la normativa italiana nel campo della bonifica dei terreni contaminati è molto farraginosa, molto lacunosa. Per ora in Italia abbiamo fatto più studi, tanti studi e pochi interventi, quindi c'è necessità di uno snellimento delle procedure, di una definizione corretta, scientificamente basata, di quelli che sono i limiti, i valori con i quali dover bonificare, e valutare aspetti tipo quelli agronomici. Ancora oggi non si sa quando un terreno va definito come terreno contaminato, soprattutto laddove dobbiamo fare delle culture agricole, laddove esiste un rischio effettivo, dove invece un'attività agricola può entrare a far parte addirittura della bonifica di contaminazione, e questo ovviamente è legato poi all'uso che si deve fare dei vari prodotti agricoli. Cioè ci sono un campo enorme di aspetti tecnici e scientifici che va riempito, e di aspetti poi operativi, pratici, che vanno definiti proprio per consentire poi di poter effettivamente bonificare, in qualche modo mettendosi sulla linea anche degli altri paesi. I paesi più avanzati hanno delle legislazioni molto più articolate e complete della nostra. Quindi il nostro prodotto finale è stato proprio quello di produrre un set di proposte normative di linee guida proprio per la bonifica dei terreni contaminati. Senz'altro, per definire se un terreno è tale da dover avviare le procedure di bonifica, il terreno deve superare una cosiddetta concentrazione soglia di contaminazione. Ha definito tutto un campo che è questo, di questi valori e di come considerare questi valori, unendoli a un'analisi di rischio, in quanto uno stesso valore in due situazioni diverse può configurare un rischio assolutamente, assolutamente diverso. Questo forse è uno degli aspetti più importanti. Un altro aspetto importante è quello dei valori di fondo, per cui a volte ci sono dei valori naturali che già sono superiori a queste concentrazioni soglia di contaminazione, e poi il fatto che le risorse economiche non sono infinite e che quindi per poter affrontare le situazioni più rischiose è necessario definire dei criteri di priorità e di prioritizzazione degli interventi. E così il professor Cossu ci ha introdotto all'argomento. Le realtà italiane critiche sono note, vanno da Taranto a Mantova, e poi ne parleremo più specificamente con l'Enea, ma il punto del comitato non era tanto censire le aree, ma stabilire cosa fare e in che ordine procedere alla bonifica, anche per non dare più spazio alla criminalità organizzata, dice Paolo Russo, deputato di Forza Italia, che fa parte sia del Comitato Tecnico Terreni Contaminati che della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sui Rifiuti. Stime prudenti indicano che qualche milione, 4-5 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, pur prodotti dal nostro sistema industriale, non si ritrovano nelle forme ordinarie di smaltimento. Una quota probabilmente è dovuta ad errori nella compilazione dei MUD, un'altra quota è dovuta a deficienze nei sistemi di rilevazione complessiva di questi flussi, ma è evidente che vi è una quantità rilevante nell'ordine di milioni di tonnellate di rifiuti che, pur prodotti dal nostro sistema industriale, non trovano forme di collocazione, di collocamento adeguato. Questo significa che vi è un'industria parallela, un sistema parallelo, attivato dalla non sempre dalla criminalità organizzata modello 416 bis, ma sempre di più da filiere criminali molto varie che si muovono in modo elastico sui territori, che offrono uno smaltimento illecito a costi significativamente più bassi di quanto non costi il trattamento ordinario. Si sa quanto ammonta il costo effettivo di questi danni ambientali arrecati dalla criminalità organizzata? Guardi, se noi calcoliamo che negli ultimi 10 anni vi è un differenziale di qualche milione di tonnellate di rifiuto prodotto e non smaltito in forma lecita, se moltiplichiamo queste tonnellate di rifiuti per un costo medio di 9-10 euro al chilo, è evidente che cominciamo a ragionare nell'ordine di miliardi. Ci vuole un tagliando alla normativa, una normativa che è un po' stagionata, dice l'avvocato Federico Perez, esperto di diritto dell'ambiente, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti. La normativa nasce nel 99, subisce una riforma nel 2006 e quindi siamo ormai a 10 anni dal testo unico ambientale, forse un tagliando effettivamente è necessario. Quello che il Comitato propone proprio dal punto di vista amministrativo è una riconsiderazione del procedimento nelle sue fasi, che obiettivamente da parte non soltanto di chi la bonifica deve farla, ma anche dell'autorità che la deve approvare, e del numero di soggetti pubblici che partecipano appunto a questa fase decisionale di approvazione, i tempi tecnici diventano molto spesso incompatibili con l'esigenza di procedere con celerità. Resta poi ovviamente anche da chiarire dal punto di vista proprio degli interventi che hanno portato la magistratura nazionale a rivolgere domande alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, fino a dove, a che punto arrivi la responsabilità di un soggetto che si trova ad essere suo malgrado inconsapevolmente spesso acquirente di un sito contaminato e rispetto al quale comunque la pubblica amministrazione rivolge delle domande molto precise e molto incidenti dal punto di vista economico. Quasi in principio di questo studio c'è un esempio, numerosi sono gli esempi che danno anche un po' la cifra di quella che è la difficoltà di operare in questo ambito. Quando si capisce che un terreno è contaminato, la possibilità di riuscire a intervenire immediatamente è pressoché impossibile, proprio per questioni burocratiche. Più che altro la possibilità di intervenire immediatamente esiste, ma esiste anche, ahimè, talvolta il rischio che per tutti gli interventi connessi alla tempestiva azione vengano contestati i mancati rilasci di autorizzazioni collaterali che possono comunque avere una loro valenza, una loro importanza. Ecco, mentre la legge copre dal punto di vista autorizzativo tutti gli impatti che la bonifica ha nel momento del progetto esecutivo di bonifica, in una fase invece emergenziale questa copertura manca, quindi il contenzioso si è sviluppato anche in questo ambito ed è una delle proposte sulle quali il Comitato ha dedicato una riflessione approfondita. Dal punto di vista invece penale, la legge italiana è adeguata, è attuale oppure no? La legge penale italiana ha avuto una recente riforma in materia di ecoreati, come tutti sanno, un'introduzione molto importante che ha visto appunto l'adesione di tante forze politiche. Per quanto riguarda i siti contaminati, quello che è stato fatto è, diciamo, raddoppiare una sanzione che già esisteva a partire dal 1997, cioè il reato di omessa bonifica, che tuttora esiste come contravvenzione ed è stato, diciamo, inasprito come delitto, con problemi di coordinamento ai quali si accennava anche prima e che obiettivamente la giurisprudenza dovrà ora cominciare a risolvere. Abbiamo una duplicazione del reato sostanzialmente. Ci fermiamo per un attimo, c'è una piccolissima pausa, poi continuiamo. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Ancora buon pomeriggio da Laura Bettini, stiamo parlando in questa puntata dell'Altro Pianeta delle conclusioni dei lavori del Comitato Tecnico Terreni Contaminati, conclusioni che sono state raccolte in una guida del Sole 24 Ore, Bonifica dei Terreni Contaminati, un titolo su cui quindi non ci si può sbagliare. Stiamo ripercorrendo i lavori del Comitato grazie alle interviste del collega Federico Mascagni, che ha seguito un convegno dedicato a questi temi che si è tenuto di recente a Ferrara. Ci siamo lasciati sull'intervista all'avvocato Federico Perez, che come spesso ahimè capita in Italia si augura una sburocratizzazione del sistema e un ammodernamento della normativa. Ora andiamo su un fronte più tecnico, più pratico diciamo, e lo facciamo con l'ENEA, l'Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Vale la pena secondo me ogni tanto recuperare il significato di queste sigle che usiamo, e sentiamo il professor Sergio Cappucci. Che cosa sono i SIN e approssimativamente quanti sono, quali sono? SIN significa siti di interesse nazionale, sono dei siti contaminati perimetrati qualche anno fa e per gli addetti ai lavori di solito sono riconducibili a 57 aree, la metà delle quali si trovano nel nord Italia, quindi sono aree industriali, a volte non produttive, dismesse, a volte invece tuttora produttive, e un altro 50% circa si trovano lungo le aree costiere, quindi sono zone perimetrate e vincolate sia nella parte a terra sia nella parte prospiciente a mare fino a 3 km dalle coste. E quindi, diciamo, dal punto di vista percentuale rappresentano una fetta non indifferente del territorio intero italiano? Assolutamente sì. In termini complessivi, diciamo che ricadono all'interno di queste aree contaminate, almeno quelle di interesse nazionale, le principali, quelle più estese, quasi il 3%, circa il 3% del territorio nazionale. Questo in termini di costi, inteso con il termine costi il senso più generale possibile, quanto incide? Ma incide tantissimo, sono state fatte diverse stime, è difficile dare un valore assoluto e dipende da che cosa si considera nei costi complessivi, cioè se quelli necessari proprio per gli interventi, per bonificarli, quindi parliamo di tanti miliardi di euro, oppure quello che in realtà poi il sistema paese perde perché un 3% del suo territorio, proprio in un momento in cui l'Europa sta guardando con attenzione al consumo del suolo, noi in qualche modo perdiamo come risorsa. E l'attenzione per esempio di questo gruppo di esperti è stata anche nel cercare di non penalizzare quelle tecniche di risanamento ambientale che magari possono essere attuate senza perdere la risorsa suolo, cioè cercando magari in tempi più lunghi, con qualche difficoltà tecnica in più, di fare in modo che questa risorsa possa essere riutilizzata. Vogliamo ricordare alcuni dei nomi più famigerati, diciamo, fra questi SIN? È difficile farne una graduatoria, quindi sono nomi assolutamente non rappresentativi, ma vanno da Taranto a Brescia, a Venezia, Porto Marghera, Porto Torres, ce ne sono quattro in Toscana, sono distribuiti un po' ovunque, uno è la Valle del Sacco nel Lazio, vicino Roma. Situazioni che sono ben di là dall'essere risolte. Sì, non si può dire conclusa, l'attenzione dovrebbe essere mantenuta su queste aree, si può fare ancora molto, anche scegliendo approcci differenti e soprattutto strategie di bonifica, di risanamento che siano più sostenibili. Quanto potrebbe essere, facendone una media più o meno, il tempo per poter considerare questi territori definitivamente bonificati? penso in tutta onestà che sarebbe poco corretto da un punto di vista etico professionale bilanciarsi su queste valutazioni. La condizione in cui versano le aree contaminate però non è uniforme, precisa Francesca Federica Quercia dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Le regioni hanno agito meglio dello Stato. Sui siti di interesse nazionale, perché penso che lei si riferisca a questa tipologia di aree contaminate, si è proceduto nell'arco di 20 anni soprattutto con interventi di caratterizzazione, ovvero di indagine dei siti. Gli interventi di bonifica sono limitati a un numero molto esiguo di aree, molto esiguo, veramente parliamo di piccole percentuali rispetto alla totalità dei siti, aree o subaree addirittura, che si possono ritenere pertanto svincolate. Forse la situazione è migliore a livello regionale nei siti di cui si occupano le regioni, che sono state in grado, forse con più elasticità, con delle norme regionali di gestire il problema, per cui lo stato di avanzamento delle bonifiche a livello regionale, almeno in alcune regioni del nord del paese, diciamo percentualmente migliore rispetto ai siti di interesse nazionale, cioè quelli gestiti sotto la diretta responsabilità del Ministero dell'Ambiente. Diciamo, i motivi in generale sono da ricondursi alla scarsa efficacia della nostra normativa e spesso poco chiarezza delle norme e molto spesso in delle lacune di carattere tecnico-scientifico che devono assolutamente essere colmate e che rendono spesso la nostra normativa impresentabile anche rispetto al contesto dei paesi dell'Unione Europea. Mi riferisco in particolare a delle problematiche che oramai sono ancestrali, che ci trasciniamo dietro da 20 anni, come per esempio i valori e soglia di contaminazione delle tabelle, che non hanno una documentazione scientifica che ne validi e ne testimoni la provenienza, ma che soprattutto le rendono spesso inapplicabile rispetto allo strumento analisi di rischio sito specifica, che è lo strumento decisionale principale per la gestione delle bonifiche. Diciamo, c'è una palese incoerenza tra questi due livelli decisionali che rendono molto difficile la gestione del problema. E dopo l'ISPRA andiamo a Catania, dove Margherita Ferrante dirige il laboratorio di igiene ambientale e degli alimenti presso l'università. Perché è coinvolta anche lei in questa ricerca? Perché acqua, aria e suolo sono un sistema unico che impatta, lo sappiamo bene, alla fine sulla popolazione e la salute della popolazione. Sentiamo Ferrante. I rischi, diciamo, in questi siti ad alto rischio industriale o ad alto rischio per la gestione ovviamente inadeguata che riguarda ovviamente le tecnologie utilizzate è abbastanza importante sulla popolazione che vive nelle immediate vicinanze o addirittura in prossimità proprio del sito. Però dobbiamo anche tenere in considerazione che questi fattori di rischio si sommano ai fattori di rischio ormai molto diffusi e già presenti in quantità abbastanza elevate nella popolazione per la contaminazione urbana. Cioè, la contaminazione delle aree urbane ormai pesa tantissimo sulla salute della popolazione, è uno dei principali determinanti di salute insieme all'alimentazione e quindi sicuramente questo non va trascurato. Tant'è vero che la cosa che noi abbiamo sottolineato è l'importanza di partire intanto da dati proprio generali di salute della popolazione che devono essere raccolti e devono essere presenti. La legge 152, ma anche il collegato ambientale, per esempio, non ha assolutamente preso in considerazione i dipartimenti di prevenzione delle ASP o delle AUSL, secondo ovviamente le regioni, che sono il cuore ovviamente della prevenzione e della promozione della salute. Quindi sicuramente una cosa importante è mettere in gioco anche ovviamente questi organismi che, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità, che ovviamente è l'organismo nazionale che si interfaccia poi con il Ministero, e devono chiaramente fare un certo lavoro sulla popolazione, che è quello di far funzionare bene i registri di patologia, compresi i registri tumori, i servizi di epidemiologia, ovviamente di questi dipartimenti di prevenzione, per raccogliere tutti i dati di salute della popolazione, che poi chiaramente, superando una criticità forte del nostro paese, devono essere chiaramente messi in rete, devono essere consultabili non solo da tutta la popolazione ma anche da tutti gli operatori del settore salute per poter essere utilizzati al meglio, e soprattutto devono essere condivisi dalle varie istituzioni, perché sicuramente non ha senso che si possa fare, come diceva poc'anzi Francesca Quercia, un'analisi del rischio sitospecifica senza poter mettere un nesso certo di causa-effetto fra i fattori di rischio presenti e la salute della popolazione, e senza quindi che ci sia un'interfaccia, per esempio, fra i dati di salute presenti nel Dipartimento di Prevenzione e i dati ambientali che sono stati raccolti, per esempio, dalle ARPA. E ci fermiamo qui per questa puntata. Gli approfondimenti ovviamente li potete trovare sulla guida del Sole 24 Ore intitolata Bonifica dei terreni contaminati. Ringraziamo tutti coloro che sono stati intervistati da Federico Mascagni, che ovviamente ringraziamo per il grande lavoro che ha svolto, e appuntamento alla prossima settimana.